la parola del Signore mi fu rivolta in questi termini: va e grida alle orecchie di Gerusalemme, così dice il Signore: io ricordo di te la tua simpatica giovinezza, l'amore del tuo fidanzamento, il tuo venire dietro a me per il deserto, per una terra non seminata. Santo era Israele per il Signore, primizia del suo frutto. Chiunque lo divorava pagava la pena, la sventura veniva su di lui. Oracolo del Signore. Ascoltate la parola del Signore, o casa di Giacobbe, e voi tutte, o famiglie della casa di Israele. Così dice il Signore: cosa han trovato di ingiusto in me i padri vostri, perché si siano allontanati da me e siano andati dietro la vanità, sicché essi stessi son divenuti vanità? Neppur han detto: dov'è il Signore che ci ha fatto uscire dal paese d'Egitto, che ci ha condotto attraverso il deserto per una terra arida e franosa, per una terra assetata e paurosa, per una terra dove non passa alcuno e dove non abita uomo? Eppure io vi ho condotto in una terra da giardino, perché ne mangiaste i frutti e i prodotti. Vi siete giunti, ma profanaste la mia terra e la mia eredità la riduceste in abominazione. I sacerdoti non han detto: dov'è il Signore? I detentori della legge non mi han conosciuto, e i pastori si sono ribellati contro di me. I profeti han profetizzato per Baal, e dietro gli idoli han camminato. Pertanto continuerò a polemizzare con voi, oracolo del Signore, e con i figli dei vostri figli polemizzerò. Sì, percorrete le isole dei Chittim ed osservate. Inviate anche a Kedar e comprenderete meglio. Poi considerate se sia avvenuta cosa simile a questa. Forse una nazione ha mutato divinità? Eppure quelli non sono dei. Il mio popolo, invece, ha mutato la sua gloria per un impotente. Stupitevi, o cieli, per questo. Terrorizzatevi grandemente. Oracolo del Signore. Sì, due malvagità ha commesso il popolo mio. Ha abbandonato me, sorgente di acqua viva, per scavarsi cisterne, cisterne squarciate che non contengono acqua. È forse uno schiavo Israele, o uno schiavo di nascita, perché è divenuto una preda? Contro di lui ruggiscono i leoncelli, elevano il loro urlo e riducono il suo paese a una desolazione. Le città sono bruciate, senza abitante. Perfino i figli di Menfi e di Tafni ti raderanno la testa. Non ti è forse avvenuto questo, per aver tu abbandonato il Signore Dio tuo, quando ti conduceva per la strada? Or dunque, qual è il tuo interesse per andare verso l'Egitto a bere le acque del Nilo? E cos'hai per andare sulla via della Siria a bere le acque dell'Eufrate? Ti castiga la tua malvagità, e le tue ribellioni ti puniscono. Comprendi ed osserva come sia malvagio e amaro che tu abbandoni il Signore Dio tuo, e che il mio timore non sia con te. Oracolo del Signore, Dio degli eserciti. Invero da tempo ho spezzato il tuo giogo, ho frantumato i tuoi legami quando dicesti: non voglio servire. Infatti, su ogni colle elevato e sotto ogni albero verde ti sei prostituita. Eppure ti avevo piantata qual vigna pregiata, tutta di ceppo genuino. Come dunque ti sei cambiata nei miei riguardi, in tralci degeneri, in vigna bastarda? Anche se ti lavassi col nitro e abbondasse su di te il sapone, sudicia resterebbe la tua iniquità davanti a me. Oracolo del Signore. Come puoi dire: non mi sono contaminata, dietro ai Baal non sono andata? Osserva la tua strada nella valle, riconosci ciò che hai fatto, giovane cammella leggera vagante per le sue strade. Asina selvatica addestrata al deserto. Nel calore dei suoi desideri aspira l'aria. Le sue brame, chi le farà calmare? Chiunque la cerca non s'affatica. Nel suo mese sempre la troverà. Evita che il tuo piede si scalzi e che la tua gola si inaridisca. Ma tu dici: impossibile, no. Ma io amo gli stranieri, dietro di essi voglio andare. Come si vergogna il ladro quando è sorpreso, così è svergognata la casa di Israele. Essi, i loro re, i loro principi, i loro sacerdoti e i loro profeti. Essi dicono al legno: tu sei mio padre, e alla pietra: tu mi hai generato. Sì, hanno voltato verso di me la schiena e non la faccia. Nel tempo poi della loro sventura dicono: sorgi e salvaci. Ma dove sono i tuoi dei, quelli che ti sei costruito? Sorgano, se possono salvarti nel tempo della tua sventura. Infatti, numerosi come le tue città sono i tuoi dei, o Giuda. Perché polemizzate con me? Tutti voi vi siete ribellati contro di me. Oracolo del Signore. Invano ho colpito i padri vostri. Non hanno accettato la correzione. La vostra spada ha divorato i vostri profeti come un leone distruttore. O generazione, considerate la parola del Signore. Sono forse divenuto un deserto per Israele o un terreno caliginoso? Perché il mio popolo dica: andiamocene, noi non torneremo più verso di te? Può forse dimenticare una vergine il suo ornamento o una sposa la sua cintura? Il mio popolo, invece, ha dimenticato me da giorni innumerevoli. Come aggiusti bene le tue vie per cercare amore? Perciò anche alle malvagie hai insegnato le tue vie. Perfino tra i tuoi lembi si trova sangue di persone povere, innocenti, che non furono sorprese a scassinare. Tuttavia, per tutte queste cose, e tu dici: sono innocente. Perfino la sua ira si è ritirata da me. Eccomi, facciamo giudizio, perché hai detto: non ho peccato. Quanto ti sei avvilita cambiando le tue vie. Anche per l'Egitto ti vergognerai, come ti sei vergognata di Assur. Anche da esso te ne uscirai con le mani sulla tua testa. Sì, il Signore ha rigettato le tue speranze e non avrai in esse successo.